disabitati che si rompono le bottiglie per far festa e ci cammini sui vetri finché poi ritornano dal futuro i nostri pensieri per dirci di essere come ieri. Raramente ti sento parlare, passavano le giostre per dirci che l'estate ruota sui nostri panorami, biglietti aerei per dimenticare l'università. Andremo all'anagrafe, che se siamo nati, non me lo ricordo, che se siamo nati.